Eccoci qua, siamo al telefono con Guido Catalano. Grazie mille per essere qui con noi intanto. Grazie a voi, ciao a tutti. Allora, il 28 febbraio è uscirà il tuo nuovo libro che si chiama Smettere di fumare baciando. Quindi la prima domanda è: i baci possono aiutare a smettere di fumare, uccidere i nazisti e che altro? Guarda, sarà una trilogia a questo punto, in effetti, dato che il mio penultimo a questo punto libro si chiama Ogni volta che mi bacio un nazista, adesso abbiamo il fumo, quindi non so ancora come si chiama il prossimo, però non escludo di metterci dentro i baci anche quella volta lì. Insomma, la cosa che mi fa piacere è che questo libro esce 6 anni dopo quell'altro dei nazisti, quindi insomma è passato tanto tempo, devo dire più del solito. I baci comunque rimangono. Ecco, i baci rimangono, ma oltre ai baci, in questa raccolta di poesie che è uscita appunto il 28 febbraio, c'è un po' un fil rouge tra le poesie, perché abbiamo visto, come sempre, c'è tantissimo amore, che è un po' la cosa che forse lega tutte le tue poesie in qualche modo. Però c'è anche l'odio, in realtà, ci sono dei veneziani, c'è del brodo, c'è un po' di tutto. Cosa ci puoi dire un po' delle tematiche? Guarda, sicuramente sì, il tema amoroso, come sempre, nel mio caso, la fa da padrone, però in effetti c'è altro, anche perché sennò diventerebbe ridondante. C'è il viaggio, ad esempio, l'ho notato rileggendolo, no? Rileggendo le poesie, ho notato che per la prima volta parlo di molte città italiane, cioè parlo di Genova, parlo di Torino, che è la mia città, cosa che ho fatto raramente, parlo di Aosta, parlo delle Marche, quindi ci sono vari momenti di viaggio, curiosamente, perché non l'avevo mai fatto. Poi si parla anche di cibo, in effetti. Tu prima hai citato il brodo, e in effetti c'è una poesia che amo in particolare, anche se l'ho scritta io, però devo dire mi piace, e parla del brodo, del mio amore incondizionato per questo alimento base, no? E poi si parla anche di tramezzini, non solo, quindi anche questa cosa qua è un po' diversa dal solito, cioè di cibo ho sempre parlato poco. E poi sì, si parla di solitudine, si parla di amicizia, si parla di molte cose, anche perché è un libro piuttosto ricco, nel senso anche quantitativamente, ci sono oltre 100 poesie, quindi non è un piccolo libro. Ecco, 100 poesie, in uno spettacolo live leggerai tutte le nuove poesie, una parte leggerai cose vecchie, perché a breve, inizio marzo, sarai in giro per l'Italia e non solo, oltretutto con un tuo spettacolo per questo nuovo libro. Come si svolgerà? Esatto. Se vuoi possiamo dare un piccolo spoiler. Sì. Sicuramente faranno da padrone le nuove poesie, appunto essendo poi molte, ho l'imbarazzo della scelta, proprio letteralmente, nel senso che magari non tutte le poesie si prestano alla lettura pubblica, però in questo libro ce ne sono tanti, quindi la cosa difficile sarà scegliere le poesie da leggere. Io poi ho la fortuna di poter cambiare, ecco, da uno spettacolo all'altro io non escludo mai di poter fare cose diverse da uno spettacolo all'altro, quindi leggerne alcune in uno spettacolo e altre in un altro spettacolo, e poi sicuramente leggerò anche qualcuna delle mie, diciamo, cavalli di battaglia, se posso usare questo termine, tratto da tutti gli altri libri, quindi sarà a tutti gli effetti un reading, e poi ci sarà anche un momento di interazione col pubblico. Ho chiesto via social ai follower, diciamo così, ai miei follower, a coloro che mi seguono, di scrivere tramite una mail che cosa vorrebbero smettere di, dato che il libro appunto si chiama Smettere di fumare baciando, che cosa vorrebbero smettere di o che cosa sono riusciti a smettere di. E quindi ci sarà anche questo piccolo momento in cui leggerò alcune di queste testimonianze, in un certo senso. Tra l'altro, insomma, il tuo è un libro di poesie, dicevamo, che arriva dopo 6 anni, nel frattempo hai fatto anche altro, ma in particolare il libro di poesie è atteso un po' come un disco rock, e tra l'altro presentato in vari locali che di solito ospitano concerti. A Bologna, per esempio, sarai al Locomotive, quindi possiamo dire che tu sei una rockstar che non fa musica. Come vivi questa tua condizione? La vivo bene, perché c'è del vero in quello che dici, nel senso che ho sempre amo la musica in maniera totale, insomma la prima cosa che faccio quando mi sveglio è accendere la musica. Ho lavorato molto con i musicisti, ho fatto tanti spettacoli con musicisti, nel senso di gente che suona gli strumenti, ma anche con cantautori come Dente, come Brunori, e quindi per me l'unione tra musica e poesia è fondamentale. Peraltro la poesia, quando funziona, ha una sua musica dentro, ha un suo ritmo, anche se chiaramente il testo delle poesie, i testi poetici sono cosa diversa dai testi delle canzoni, e quindi è venuto un po' naturale per me a un certo punto lavorare, fare i miei spettacoli anche nei club, insomma non solo nei teatri o nei festival tipici letterari, ma anche in club, appunto come il Locomotive, come il Monk, come a Torino l'Hiroshima Mon Amour, e mi piace molto quel tipo di atmosfera che si crea pur non suonando io, ma declamando, diciamo così. Infatti sì, è una condizione un po' strana, però è parecchio tempo comunque che ti vediamo in questo... Sì. In questo tipo di locali. Ecco, dicevi che torni dopo diverso tempo con questo libro che si chiama Smettere di fumare baciando. Era un po' che non scrivevi poesie, ti sei dedicato a altro, ci sono stati romanzi, ci sono stati altri tipi di scrittura. Perché hai lasciato la poesia da parte? Mancava l'ispirazione? Ti aveva stancato? Cos'è che ti ha tenuto lontano? Questa è una buona domanda, e in effetti è una cosa delicata, la cosa della poesia, perché lo scrivo anche nella prefazione del libro, cioè che la poesia non la posso scrivere a tavolino, nel senso non decido io, ma ci sono dei momenti in cui decide lei di arrivare, una cosa, la famosa ispirazione, in questo caso esiste, cioè ci sono dei momenti in cui proprio si apre una sorta di porta da cui tracimano delle idee che poi io faccio diventare poesie, e questa cosa ha una durata, può durare settimane, mesi, però poi smette. Questa cosa mi è già successa molte volte. La cosa importante è non farsi prendere dal panico, cioè non pensare che sia finita lì, che tu non scriverai più poesie, perché ormai ho capito che funziona così. Non ho ancora capito che cos'è che fa scattare l'apertura di questa sorta di cancello che mi porta a riscrivere le poesie. Per fortuna poi si può anche fare altro, come dicevi, in questi 6 anni ho scritto altri libri, ho scritto dei romanzi, ho scritto addirittura un libro di fiabe, e quindi insomma non sono stato con le mani in mano, però mi mancava, e iniziavo a preoccuparmi, non te lo nego, cioè dopo 6 anni iniziavo a dire, beh, se non si apre più il portale della poesia può diventare un problema. E invece eccoci qua a presentare appunto Smettere di fumare baciando, che sarà anche in tour, perché dicevamo inizi l'8 marzo a Torino, poi passi da Genova, Salerno, Napoli, Firenze, insomma una marea di città. Il 23 marzo sarai al Locomotive di Bologna, quindi intanto tutti gli ascoltatori segnate in agenda 23 marzo, e ci sono anche 2 date finali, Bruxelles e Barcellona. Per queste 2 date hai tradotto le poesie e le reciterai in francese e in spagnolo, o pensi che la capiranno comunque? In realtà, siccome sono già stato sia a Bruxelles sia in Spagna, in realtà quando io vado a fare queste cose qua fuori dall'Italia, il 98%, per non dirti il 100%, del pubblico è o italiano o italofono. O italofilo, cioè quindi meno male si capisce quello che dico, ho notato questo, quindi in realtà non avrò bisogno di tradurle, anche perché poi sarebbe piuttosto imbarazzante per me doverle dire in francese o in spagnolo o addirittura in catalano, sarebbe interessante, dato che mi chiamo catalano sarebbe un paradosso divertente. Allora direi che intanto ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato, ricordiamo appunto Smettere di fumare baciando, il nuovo libro di Guido Catalano che sarà al Locomotive di Bologna il 23 marzo. Ti chiedo se hai una dedica, un messaggio da lasciare ai nostri ascoltatori per invitarli un po' magari a scoprire questo tuo nuovo libro, o anche a scoprirlo magari direttamente dal vivo qua a Bologna. Direi innanzitutto smettete subito di fumare se lo state facendo, perché fa malissimo, lo dice uno che tende alla dipendenza di nicotina, e baciate il più possibile, quello fa bene, lo scrivo anche dentro il libro, fa bene non solo perché può essere un'alternativa ad accendersi una sigaretta, ma dicono che fortifichi anche i denti e fa dimagrire, è incredibile, ma quando baci perdi delle calorie, consumi delle calorie, quindi è pazzesco, cioè è una roba incredibile. Grazie mille Guido, è stato un piacere, e arrivederci a presto. Grazie, arrivederci a presto.